giorno penso a te e non mi rassegno che non stai più con me. Di te io non mi stancherò mai, sono solo sai tu con chi stai. M'hai detto non cercarmi, vai. Questa è la realtà. Sto provando a cambiare vita. Se pensi che mi arrenderò, che con il tempo smetterò di sognarti sempre insieme a me, è un grande sbaglio e tu lo sai. Ma nel tuo cuore che cos'hai? È sbaglio adesso. Quest'amore non è solo sesso. Come fa male la perdita di un amore? È un forte dolore che non va via. Non devi giocare a spezzarmi il cuore. Io non posso senza di te. Credevo che tu fossi mia, ma tutto è stato una bugia. Io ti ho dato solo il meglio di me, da qualcun altro te ne andrai. Un vuoto in me tu lascerai. Mi chiedo adesso. Era questo quello che hai promesso. Come fa male la perdita di un amore? È un forte dolore che non va via. Non devi giocare a spezzarmi il cuore. Io non posso stare senza di te. Se poi tu ritornerai da me, svanirà. Lo sai che non ti dimenticherò mai, perché io ti ho amato come ti ho promesso. Come fa male la perdita di un amore, è un forte dolore che non va.